con Raffaello Fusaro, regista del film Luce a cavallo, in programma domenica 21 ottobre a Roma, al Maxi. Raffaello, ben trovato. Ciao, ciao Federico, buon pomeriggio. Come lo presenteresti? È un'opera abbastanza indefinibile perché ha al contempo più cose. È un po' un documentario perché racconta un territorio particolarmente a me caro dell'Italia, che è un posto che si chiama la Tuscia, che è l'Alto Lazio sostanzialmente, quindi quello che un tempo si chiamava l'Etruria. E il vero protagonista di questo piccolo racconto è proprio la terra del Lazio, della Tuscia. Poi contemporaneamente c'è un viaggiatore che la attraversa e quindi seguiamo il transito, il passaggio dalla partenza all'arrivo di questo personaggio senza una trama, volutamente senza una trama, perché ci sono tanti possibili inizi all'interno di questo film, cioè lui percorre questo luogo magico che è appunto la provincia di Viterbo, come se fosse un luogo caleidoscopico, cioè entra in una grotta, ne riesce in un'altra, si gira in un anfiteatro, ma in realtà sono tre anfiteatri mischiati insieme, poi cammina sulle sponde di un fiume, ma non è solo uno, e così via. Quindi ci accompagna in questo cammino in una terra che si sta facendo ascoltare. E noi vediamo camminiamo insieme a lui. E non c'è solo questo in realtà, quindi non c'è solo il documentario o la finzione con un attore. C'è anche un po' una fiaba, perché ho cercato di ricostruire, ci ho provato almeno, a ricostruire quello che avviene nei nostri pensieri quando compiamo questo genere di cammini, di viaggi, piccoli o grandi che siano. Cioè ripercorriamo mentalmente, guardandoci intorno, brandelli di chi ha attraversato quei luoghi, pensiamo spesso chissà chi c'era qui, e quindi lui cammina in un mondo di presenze che in maniera molto leggera, quasi impercettibile, gli si presentano intorno. Quindi a volte compaiono delle evocazioni letterarie, dei passi che lui ricorda con la voce pensiera, oppure proprio dicenti, dei passi letterari, dei passi poetici, o addirittura percepisce la presenza intorno a sé del passato, di figure del passato. Quindi un film che dura 15 minuti, fa parte di un progetto molto più ampio. Io avevo iniziato raccontando Nelle favole iniziano a Cabras, era un documentario per Sky Arte, una Sardegna profondamente sconosciuta, e più una Sardegna lontana dagli stereotipi che abbiamo di solito in merito a quella terra, di guardarla con un occhio da viaggiatore. E questa volta poi sono arrivato nel Lazio, che è la terra che mi ospita da tanti anni, e mi auguro di continuare questo racconto attraverso i territori italiani più significativi, ma c'è l'imbarazzo della scelta nel nostro paese. Da dietro la macchina da presa, quando e come era cominciato questo viaggio? Da dietro la macchina da presa, no, è iniziato prima della macchina da presa, iniziano quasi sempre dai miei appunti oppure dal mio iPhone, questo genere di racconti, perché appunto, come ti dicevo prima, ci sono sempre tre fasi nel viaggio: la partenza, poi il percorso, il transito e poi un arrivo. In questo caso non c'è volutamente un arrivo, perché è un viaggio che continua, non c'è proprio un finale. È arrivato dal fatto che io amo molto il silenzio che c'è fuori da Roma, che è una città, come si sente in sottofondo in questo momento, devastata da ogni punto di vista. Invece il Lazio nasconde dei gioielli e delle preziosità veramente rare. E allora, passandoci fine settimana, weekend, e poi magari anche il mio tempo libero, e poi anche un po' di cuore, perché io ho collaborato spesso con dei festival, tra cui Caffeina, che è un festival che fanno a Viterbo, ho sentito la necessità di raccontare un luogo che mi aveva veramente impressionato tanto, mi aveva molto colpito, che secondo me non ha nulla da invidiare al Chianti o a posti che vanno più di moda in questo momento, ecco. Anzi, li supera di gran lunga, perché è pregno di tante epoche, di tante storie che si sono stratificate. Ecco, dicevi dell'archeologia, dei silenzi, quali sono gli elementi complessivamente che ti hanno fatto innamorare di questa terra? Una volta un giornalista che stimo molto, che si chiama Dante Matelli, mi disse una cosa illuminante, cioè me la riuscì a rendere più chiara quando gli raccontai che stavo girando una cosa sulla Tuscia. Lui mi disse: alla Roma Cacciarona si contrapponeva il mondo etrusco, era il mondo che non viveva in piazza, viveva sottoterra, viveva nei silenzi, nelle pause, magari al ritmo di una musica che era quella degli antichi flauti che hanno tentato di ricostruire ma che non conosciamo. E questa fu una chiave abbastanza illuminante. Poi ne ho studiate tante altre, per esempio nel film si sentono dei versi di Cardarelli, di Rodolfo Wilcock, di poeti legati a quei luoghi. Però ecco, io ho cercato di inseguire quel silenzio così pieno di presenze. Poi ci sono degli anfiteatri poco conosciuti, tipo Sutri e Ferento, che sono dei gioielli di rara intensità. Poi ci sono le foreste di faggi millenarie. Viterbo è una specie di piccola Avignone italiana, ci sono stati papi. Quindi diciamo che non so dirti proprio che cosa mi abbia colpito. È più facile dire cosa non mi abbia colpito, perché è un territorio variegatissimo e ricco, che attraversa il Medioevo, attraversa il Rinascimento, aveva attraversato precedentemente l'epoca etrusca e ha attraversato la storia del Novecento, perché tanti grandi personaggi del nostro Novecento hanno avuto a che fare, viaggiatori, archeologi, poeti, pittori, scrittori, hanno avuto a che fare con l'Alto Lazio. 15 minuti che ne fanno un'opera compiuta, oppure una prima tappa per un progetto più ampio? È una prima tappa per un progetto più ampio. Noi dobbiamo combattere sempre con questa maledizione che è il reperimento di fondi adeguati per riuscire a fare queste operazioni oggi. Io ho bussato a tantissime porte per mesi, ho bussato a porte di produttori e porte istituzionali, ma alla fine siamo riusciti a mettere in piedi una cosa che non soffre del fatto di essere più breve, ma anzi credo che forse sia la sua peculiarità, doveva nascere così, ma è l'aperitivo di un progetto più ampio, perché come ti raccontavo prima ho in mente una serie di storie, di documentari che erano tutti diversi, che raccontino i territori tutti singolari e tutti differenti del Lazio e dell'Italia. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Luce a Cavallo di Raffaello Fusaro al Maxi a Roma domenica 21 Roma, ottobre domenica. Raffaello, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci. Grazie, presto Federico. Grazie di cuore, un abbraccio a te, ciao. Ciao.